4 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Quando sono le 8 e 21 minuti in questo istante, parliamo di attualità politica, lo facciamo con il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che saluto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta Di Pietro, quando Mario Monti dice sono stato abbandonato dai poteri forti, lei come la legge, secondo alcuni giornali vuol dire che è la fine o addirittura cos'è, uno sfogo del Premier? Io la leggo da ex magistrato, gli diamo l'alternativa generica perché ha confessato, ha sempre negato che lui era il rappresentante dei poteri forti, noi lo abbiamo sempre denunciato che era stato messo dai poteri forti per fare gli interessi dei poteri forti, ed infatti i provvedimenti che ha preso erano provvedimenti e sono provvedimenti che hanno tartassato la gente onesta e hanno lasciato in pace i poteri forti. Adesso ha capito che bisognava anche prenderselo un po' con loro e i poteri forti lo vogliono mandare a casa. Chi sono questi poteri? Quando il si dice in Italia? Nome e cognome, il sistema della finanza innanzitutto. Vede, accettare che l'Europa, la BCE, ci dà oltre 100 miliardi di euro e nello stesso all'1% di tassi, e poi non pretendere che il sistema bancario che ha ricevuto quell'1% di tasso a sua volta desse questi soldi al sistema delle imprese e al sistema delle famiglie, ma ci va a comprare i bot al 6-7%, io credo che in questo modo già è un interesse da poteri forti. Vede, salvare gli scudati fiscali e tassare gli esodati, anzi mandare a casa gli esodati, è un sistema da poteri forti. Ma lasciare Monti ha citato anche Confindustria, ha detto un giornale, probabilmente il Corriere della Sera, per lui quelli sono i poteri forti, evidentemente. I poteri forti che abbiamo visto in questi giorni, mesi e anni operare sono sempre quelli: il sistema della finanza e della speculazione finanziaria, il sistema bancari. Vede, prevedere come è stato previsto nell'ultimo provvedimento la esenzione dall'IMU delle fondazioni bancarie e tassare le case di poveri cristi che stanno in qualche ospizio e hanno dovuto pure chiudere il loro unico appartamento, mi pare che questo sia un essere rappresentante dei poteri forti. Sono oggi qui. Se ne lamenta, no, non è solo questo, vuole un elenco per una mezz'oretta? No, però voglio dire, lui non si lamenta forse di questi poteri forti, perché se ha fatto queste cose per loro non dovrebbe abbandonarlo, seguendo questa logica. No, perché adesso quei poteri hanno capito che non ce n'è più e che quindi tocca anche a loro. E allora cosa fanno? A ognuno lo mettono lì come pagliaccio, ne approfittano, lo spremono, lo utilizzano come bella faccia, dopodiché lo buttano al cesso come sempre è stato fatto. Un'analisi sintetica ma efficace. Senta, lei perché ha detto a Bersani una sorta di out-out proprio nel giorno in cui c'è la direzione del PD? Cosa si aspetta da questa direzione? Vuole le primarie di coalizione anche per partecipare lei come rappresentante? No, io vorrei capire che programma intende portare avanti il Partito Democratico, perché vede, se si vota in materia di giustizia questo provvedimento di riforma per la lotta alla corruzione, dove si elimina il reato di concussione per induzione, che è il reato tipico di Tangentopoli, dove si lasciano fare gli arbitrati, che è il meccanismo tipico per far diventare leciti appalti che da un euro diventano 1.000 euro e li moltiplicano per un po' di zeri. Se si vota il non arresto di De Gregorio, sì, e lì la matematica non è un'opinione, se si vota il voto di fiducia sull'articolo 18, vuol dire che il programma del PD e quello del PDL compaciono molto, quindi forse è quell'altro la coalizione che devono fare. A noi dell'Italia dei Valori che interessa un modello riformista dove lavoro, legalità e una maggiore attenzione agli aspetti sociali che sta attanagliando il nostro paese ci interessa molto. Noi stiamo cercando una coalizione che nel paese possa rappresentare la maggioranza su questo impegno politico che intendiamo prendere con gli elettori. Quindi vede il PD più vicino al PDL che a voi ormai? Non confondiamo gli elettori del PD a cui ci rivolgiamo cercando di distinguere il grano dall'olio. Mi perdoni, io sto parlando a suocera per far capire a nuora. Mi sto rivolgendo agli elettori del Partito Democratico, non chiudetevi nel vostro voto semplicemente dietro una sigla, andate a vedere in concreto le persone che stanno facendo. L'Italia dei Valori in questo momento sta rappresentando proprio l'istanza che a parole il PD voleva rappresentare, e forse dare più forza all'Italia dei Valori significa anche mettere le cose un po' più chiare e più a livello. Senta, ma la foto di Vasto che fa? Lei la tiene ancora? È da stracciare, sbiadita? La foto di Vasto c'è e resta lì, e intende dire che noi cerchiamo agli elettori di darci l'autorizzazione per un governo politico dove chi deve pagare le tasse non devono essere al solito i poveri cristi e i più deboli, e dove le spese vanno valutate in termini di priorità. Riportare i soldati dall'Afghanistan piuttosto che mandare a casa gli esodati fiscali e così via. In questo senso la foto di Vasto se l'ha riempito di quelle facce, di quei volti della politica che ci stanno. Quelli che non ci stanno è inutile che stanno a fare la foto, la macchina, la sporcano. La sporca. Senta, ma oggi se dovesse dire Bersani, le primarie solo all'interno, le primarie di partito e quindi fuori dalla, cioè le interessa ancora quello che oggi dirà Bersani, primarie di coalizione, oppure ormai lei è già oltre? Se è di partito se la vedono loro, io il Partito dell'Italia dei Valori non è il Partito Democratico e quindi certo, se la facciano loro, ma è giusto pure che sia così. Se dovesse essere di coalizione, prima di fare le primarie, come si dice a casa mia, prima di sposarsi bisogna conoscerla, i matrimoni per corrispondenza non sono mai riusciti, ci dica qual è il programma, qual è la coalizione e quindi che cosa intende fare, perché partecipare alle primarie per dire chi deve governare senza dire per fare cose e con chi e come sposarsi per corrispondenza. Cioè, quindi lei dice può essere che dicano primarie di coalizione, ma non è detto neanche che accettate. Ma se non sappiamo per fare che cosa, voglio dire, qual è il programma? Continuiamo a votare la prossima volta quando c'è da votare l'USI, votiamo pure noi insieme a loro per dirgli no alla. Ma lì c'è stato lo scambio, secondo lei? Noi ne parleremo tra poco. Secondo lei c'è stato lo scambio? Mi aiuti lei, quale scambio c'è stato? No, salvare De Gregorio, voi salvate De Gregorio, noi salveremo l'USI. Ecco, questo si ipotizza. Lì è stato peggio. Lì la parola più diciamo chiara l'ha detto il deputato Panis quando, a proposito di un altro arresto alla Camera, ha detto di votare no all'arresto, era così motivato. Non possiamo, io me lo ricordo, stavo lì, me lo guardavo di fronte in aula, non possiamo votare l'arresto di questo signore perché oggi tocca a lui, domani potrebbe toccare a noi. Cioè, lei capisci io che ci sto a fare. No, vabbè, ho capito, cioè, che immagine abbiamo del Parlamento? Ci vorranno, a questo punto, che ne pensa di quello che dice Beppe Grillo? Ci vorranno i tribunali popolari che devono giudicare i politici? Questo, voglio dire, esiste quando c'è una rivoluzione non democratica. Io intendo fare la mia rivoluzione democratica presentandomi dai cittadini e chiedendo a loro la forza e il consenso per cambiare questo paese. Ci credo e lo sto portando avanti. Sto portando avanti questo. Però no, non mi ha detto, secondo lei, se c'è stato questo scambio nel segreto delle urne De Gregorio Lusi o no? Cioè, perché è stato salvato De Gregorio? La giunta aveva detto sì all'arresto. Perché evidentemente ci sono, perché in materia di giustizia non esiste centrodestra, centrosinistra e voto di partito. Esiste una maggioranza trasversale certificata anche da questo voto, in cui le persone si parlano fra di loro e o perché ricattate o perché comprate o perché c'è un voto di scambio, come dice lei, oggi a me domani a te. Ma torno a ripetere, io quello che prego i cittadini è di non fare tutto erba un fascio, perché non è vero, non era vero nella prima repubblica che c'erano soltanto i parlamentari delinquenti, c'era sì Ciancimino e Salvo Oliva, ma c'era anche Pio La Torre e Mattarella che sono morti ammazzate per dare democrazia, e in questa seconda repubblica non è vero che ci stanno che in Parlamento o tra i politici siano soltanto persone che si fanno gli affari loro, ci sono anche persone che si fanno un mazzo così per cercare di portare avanti all'interno delle istituzioni e non in modo violento gli interessi dei cittadini. Senta, per concludere, ieri anche lei ha avuto un comizio movimentato, però, come Beppe Grillo, che hanno arrestato una persona che l'ha disturbata in un comizio, lei è andato in questura a dire no, portatelo fuori, ma che è successo? Che mi conviene? Allora, una cosa molto semplice, anche molto, quando un politico fa una manifestazione in piazza ne accetta il rischio. Allora, se c'è una persona, lì c'era solo una persona che era arrabbiato con la le contestava, autorità locali, non è che contestava me, con le autorità locali che non gli davano assistenza. E allora, ed è giusto che ci sia così, in democrazia se c'è una persona che è arrabbiato con i politici, voglio dire, se tu non vuoi sentire contestazioni te le vai a chiudere, se vai all'aperto l'accetti. I carabinieri l'hanno preso, l'hanno portato via cercando di fare il loro dovere. Perché è vietato disturbare un comizio, no, un comizio politico, vero, per la legge, per la legge. No, non esiste. Vent'anni fa l'avrebbe fatta arrestare, no, lei. Scusa, no, assolutamente. Io invece ritengo che in democrazia tutti hanno diritto di parlare e di esprimere il proprio dissenso. Se se un politico non ha il coraggio di presentarsi in piazza perché teme di essere contestato, non ci va, non che le persone non possano contestarlo. In questo caso, però, poi vorrei dire agli ascolti, ci ascolta come è finita questa cosa. Sono andato, ho immediatamente interrotto il comizio, sono andato immediatamente in caserma, e in realtà la cosa non solo si è chiarita subito, ma l'ho riportato in piazza. L'ha riportato a braccetto. E ci siamo messi a fare il comizio insieme, come a dire, proprio a dimostrare che non era un problema che era con me. Lui è arrabbiato, come tutti quei giovani che sono arrabbiati col mondo intero, perché non un voto in più, si è preso un voto in più, si è portato. Diceva mia madre, a 1-1 si fanno le medie uno, tradotto. A uno se si cerca, andando nel territorio e parlando con i cittadini direttamente, si può cercare di ottenere quel che attraverso la disinformazione a volte dei media non si riesce a ottenere. Vabbè. Grazie, buona giornata, ovviamente, essere stato con noi il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. E noi, come detto, parliamo tra poco anche col vostro contributo 800240024 con di quello che è successo con il senatore De Gregorio, che ieri era ospite della Zanzara. Era stato richiesto l'arresto, la giunta per l'autorizzazione aveva detto si procede all'arresto, e poi nel segreto dell'urna non è stato arrestato, il Senato ha respinto l'arresto per il senatore. Avremo con noi l'onorevole Alfonso Papa, lui che in carcere da magistrato e da parlamentare è andato 101 giorni. E un esponente del PD, Francesco Sanna, tra poco, dopo pubblicità e meteo. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti, 800240024 per intervenire in diretta. Ora tutti a chiedersi chi ha salvato Sergio De Gregorio, il senatore Sergio De Gregorio. C'era su di lui una richiesta d'arresto, la giunta per l'autorizzazione del Senato aveva detto si proceda pure con l'arresto perché non c'è il cosiddetto fumus persecutionis, ma l'aula nel segreto del voto ha respinto questa richiesta di arresto, 149 voti a 109. Le accuse, gli incroci, i sospetti, addirittura è stato salvato De Gregorio perché la prossima settimana bisognerà salvare Lusi, l'ex tesoriere della Margherita. Ieri De Gregorio, ospite della Zanzara con Giuseppe Cruciani, ha detto: mi hanno salvato anche quelli del PD, probabilmente. Insomma, ne vogliamo parlare con l'onorevole Alfonso Papa, che saluto. Buongiorno, onorevole Papa, del Popolo della Libertà. Buongiorno, eccoci buongiorno. Qua. L'onorevole Alfonso Papa, forse lo ricordate, tra l'altro ha fatto 101 giorni, è giusto, onorevole Papa, 101 giorni di carcere? Sì. Di carcere per la vicenda, la cosiddetta inchiesta P4, e lì la Camera votò per la richiesta di autorizzazione all'arresto. Mi faccia salutare anche il del Popolo della Libertà, tra l'altro so che ha sospeso ieri uno sciopero della fame perché ha avuto alcune rassicurazioni da Silvio Berlusconi, tra poco ce le racconterà. Saluto anche il senatore Francesco Sanna del Partito Democratico, buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Beh, intanto De Gregorio che dice mi hanno salvato anche quelli del PD, lei che è stato il relatore in aula della vicenda e che era per l'arresto ma non per cattiveria, voglio dire, ha esaminato le carte, insomma, e ha detto bisogna procedere con l'arresto e quindi vota sì. Che ne pensa di De Gregorio che dice mi hanno salvato anche quelli del PD, numeri alla mano? Ma insomma, De Gregorio può dire quello che vuole. Un esponente del Partito Democratico ha condotto quella che in un processo sarebbe, si direbbe l'accusa. L'ha argomentata senza infierire inutilmente, ma riportando quelli che sono i fatti ricostruiti dalla magistratura, spiegando perché di fronte a reati molto gravi che gli vengono addebitati la richiesta degli arresti domiciliari dovesse essere accolta. Sì. Per la dignità del Parlamento, per la capacità di funzionare senza avere il peso di una continua accusa di non essere credibili, e anche perché i parlamentari sono uguali a tutti gli altri cittadini, a meno che non ci sia un'evidente prova che si voglia colpire con l'azione della magistratura la loro opera politica. Il cosiddetto fumus persecutionis. Poi De Gregorio certo. è stato salvato, non dal voto di questo o di quest'altro, è stato salvato, tra virgolette salvato, dal fatto che 20 esponenti del partito del Popolo delle Libertà hanno richiesto il voto segreto, che è una procedura che normalmente non si usa, ma che in questa occasione è stata utilizzata in modo tale da garantire a chi magari in aula dice una cosa, nel segreto dell'urna voleva fare un'altra. Però quindi... certo, però Magarinaula dice una cosa e poi ne vuole fare un'altra, lì ecco che potrebbe esserci anche qualcuno del Partito Democratico, potrebbe esserci anche lo stesso De Gregorio che ha votato contro di lui, per carità, potrebbe esserci tutto, però lei mi capisce, c'era una delle condizioni, l'unica condizione per poter poi discutere su chi ha salvato De Gregorio era esattamente questa: togliere il voto segreto, cioè non votare segretamente. Ma questa era una prerogativa diciamo di richiesta, ma al di là delle accuse incrociate io vorrei, onorevole Papa, lei che ha sperimentato sulla sua pelle cosa vuol dire un Parlamento che vota un'autorizzazione all'arresto, e quindi lei poi ha fatto 101 giorni di carcere, immagino sia soddisfatto da collega, perché il carcere non si augura a nessuno che il senatore De Gregorio si sia salvato, però non è una ingiustizia, almeno così la vivono i cittadini, come dire, i parlamentari sono meno uguali degli altri? Ma guardi, io molto francamente io dico tre cose. La prima, come testimonia anche, devo dire, ma con il massimo rispetto, la tortuosità del ragionamento e dell'esposizione del senatore Sanna, la prima riflessione che faccio è che oggi l'istituto dell'autorizzazione all'arresto, sia in giunta che nell'aula, di fatto risponde a logiche di valutazione politica e a logiche di strumentalità politica, e questo è il vero limite e oggi è la vera inadeguatezza di questo istituto, che mi sembra ormai essere diventato il regno delle ipocrisie. La seconda, noi abbiamo un codice e una costituzione, entrambi ci dicono che il ricorso alla custodia cautelare in carcere è l'estrema ratio, perché una persona indagata debba essere messa in carcere durante le indagini, vi devono essere delle esigenze specifiche e particolari che vedono poi il carcere come estrema ratio. Prima del carcere vi sono gli arresti domiciliari, prima degli arresti domiciliari vi sono delle misure interdittive. Ora, senza entrare in evoluzioni pindariche o dialettiche particolari, il senatore De Gregorio è accusato di fatti molto gravi, rispetto ai quali deve difendersi nel processo, deve dar conto, e rispetto ai quali un processo dovrà dire se egli è colpevole o innocente. Per la qualità del senatore De Gregorio, per le sue caratteristiche, per i fatti che gli vengono contestati, oggettivamente vi sono sicuramente delle misure che potevano essere più adeguate, a cominciare proprio dagli arresti domiciliari. Ma che infatti erano proposti. In tal senso, vengono fatte delle valutazioni, vengono fatte delle valutazioni dall'Aula, la quale, esercitando ciò che viene permesso, consentito, il voto segreto è un istituto che viene consentito, ha espresso quella che è stata la sua. Però capisci, onorevole Papa, certo, ma tutto è legale, è legittimo, però il cittadino dice se mi chiedono a me l'arresto io non posso difendermi con l'urna. E la terza considerazione che io volevo fare è che appunto noi non dobbiamo guardare la giustizia o l'ingiustizia dal basso, ma dobbiamo guardarla dall'alto. Io ho presentato una proposta di legge che ha raccolto in due giorni 300 firme, interveniamo sull'istituto della carcerazione preventiva e della custodia cautelare, limitiamola ai fatti di maggiore allarme sociale, ai fatti di sangue, e tutti insieme aboliamo l'istituto dell'autorizzazione all'arresto per i parlamentari. Infatti su questa così, è la sua proposta. Così non saremo costretti a dire o a fare quelle che vengono lette spesso come ipocrisie politiche. Però onorevole Papa, la questione è questa, cioè se chiedono un arresto per me Alessandro Milan, mi prendono e mi prelevano, e mentre l'istituto che doveva tutelare, per carità, le caratteristiche peculiari del ruolo del senatore o del parlamentare è diventato una protezione, un ombrello sotto cui proteggersi, magari facendo quelle ipocrisie politiche a cui lei fa riferimento, così la leggono i cittadini. E infatti, se noi vogliamo essere un paese civile, anziché di dire chiediamo l'arresto per il cittadino e chiediamo l'arresto anche per il parlamentare, e arrivare poi all'ipocrisia di fare come accade dell'arresto del parlamentare, non una lettura delle carte, perché mi creda, le carte non le legge nessuno, sì, ma una valutazione, un gioco politico. Interveniamo sulla possibilità durante le indagini di arrestare le persone e di farle andare a processo con le manette ai polsi. Cioè, stringiamo questa possibilità. Oggi in Italia un detenuto su due è in attesa di giudizio. Questa è l'inciviltà. La vera inciviltà è questo. Chi dice facciamo sì che tra quell'un detenuto su due ci possa e ci debba essere anche il parlamentare non risolve il problema, fa demagogia e prende in giro quel detenuto su due che sta in carcerazione preventiva e che sconta sulla sua pelle i ritardi o gli abusi della giustizia. Il punto è interessante, dopo le informazioni sul traffico lei dice invece di creare queste diatribe, il cittadino è diverso, il parlamentare, lei propone facciamo una revisione dello strumento della carcerazione preventiva per renderlo davvero necessario laddove è strettamente necessario, cioè perché sennò si creano questi casi in cui il cittadino si sente diverso e meno tutelato di un parlamentare. Tra poco ripartiamo da qui. Allora vorrei sentire, ci ha chiamato l'800 24 00 24, come tanti ascoltatori, Tullio da Como. Tullio, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare questa considerazione per il mancato arresto lì del De Gregorio. Sai il famoso detto, no? Cane non mangia cane. Vabbè, detto popolare. Io ricordo una frase pronunciata da un noto magistrato del Pol di Mani Pulite 4-5 anni fa, il quale disse testualmente: la politica è figlia del ricatto. Gli dettero tutti contro, specialmente i politici, no? Solo per aver detto la verità, perché in politica bisogna evidentemente sempre mentire. Poi un'altra cosa, nel pieno boom di Mani Pulite 20 anni fa, quando molti italiani chiedevano la scesa in campo di Indro Montanelli, lui disse testualmente: io in mezzo a gente di malaffare non ci vado. Ecco. Lei ha fatto un quadretto di ciò che pensa della politica. Tullio, la ringrazio. Senatore Sanna, siamo al cane non mangia cane. Sa che si sono esercitati tutti sui giornali a dire: certo, è stato salvato De Gregorio perché adesso toccherà salvare Lusi. E guardi che i cittadini la pensano così. Pensano male o ci azzeccano? Purtroppo pensano così perché lo strumento della tutela costituzionale che viene data ai parlamentari, appunto l'autorizzazione, badate bene, non a fare le indagini, questo era sino al 93, ma semplicemente oggi ad essere limitati nella libertà personale, quindi essere parlamentari e non poter andare in Parlamento. No, certo, le indagini e gli eventuali processi andranno avanti, De Gregorio dovrà rispondere agli eventuali accuse. Ecco, volevo anche ripetere che nel caso del senatore De Gregorio noi avevamo fatto un esame delle carte e da queste carte emerge uno scenario di reati gravi, emerge il fatto che il giudice per le indagini preliminari non ha seguito per tutto le richieste del pubblico ministero. Il pubblico ministero voleva il senatore De Gregorio in carcere. Sì. E invece il GIP ha disposto gli arresti. Ma guardi, senatore, ma l'onorevole Papa ci dice che non le legge nessuno le carte, cioè sono valutazioni politiche che si fanno. Questo non è vero, non le legge nessuno le carte più integrali, perché oggi c'è un sistema di riservatezza su queste carte, che sono carte di indagini, che va smantellato. Ma i 24 membri della Giunta delle Immunità le carte le hanno lette, le hanno compulsate, le hanno discusse, hanno sentito e hanno interrogato anche il senatore De Gregorio e hanno deciso che gli arresti erano giusti. Quindi i cittadini si arrabbiano perché senza alcuna motivazione, tranne quelle che abbiamo sentito in aula e che sono le stesse che ha detto il senatore, l'onorevole Papa, il PDL ha sostenuto che un parlamentare può andare in carcere solamente se ha ammazzato qualcuno, se ha fatto una strage o se è complice. Ma però l'onorevole Papa propone qualcosa di diverso e vorrei il suo parere su questo. Io ho presentato. Ha presentato questa proposta di legge. Una proposta di legge che vale per qualunque cittadino. E la proposta, che ripeto, ha raccolto circa 300 firme in 2 giorni, prevede il ricorso alla custodia cautelare in carcere durante le indagini preliminari per i delitti di sangue, sì, per i reati di maggiore allarme sociale e per fatti di mafia o di terrorismo. Ma perché lei cosa teme, onorevole Papa? Lei che anche è un ex magistrato, teme che vengano utilizzato il carcere per far parlare qualcuno, che vengano sbattute le persone in carcere per come una sorta di ricatto? Io questo per il caso che mi riguarda l'ho denunciato. E voglio ricordare che noi abbiamo una serie di misure gradate rispetto alle quali invece la regola è diventata la custodia cautelare in carcere. Il 43% dei detenuti italiani è sottoposto a custodia cautelare e incarcerazione preventiva, non ha una condanna da scontare. Sì, sì. Questo è contro la Costituzione ed è contro le leggi. Anche perché se poi sono innocenti è chiaro che si fa. Questa carcerazione preventiva, che può raggiungere la durata anche di 6 anni per i reati più gravi, viene di fatto a diventare un'anticipazione della pena. Sì. Il problema è che la metà delle persone sottoposte a custodia cautelare viene assolta o prosciolta. Certo, e quindi si sono fatte il carcere diciamo inutilmente. Mi faccio sentire Maurizio da Bari che ci ha chiamato. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Dica, sia sintetico per cortesia. Quando il senatore De Gregorio dice di essere stato salvato anche dai parlamentari del PD, dice una cosa aritmeticamente vera. Nel senso che se i parlamentari del PD fossero stati tutti presenti, il problema dei numeri non si sarebbe posto. E questo delle assenze si ripete sistematicamente. Ma io non so, adesso non ho il calcolo. Al di là dei numeri, poi bisogna vedere uno come vota, caro Maurizio, perché poi nel segreto dell'urna. Sa, uno magari del PD avrebbe uno del PD, capisce Maurizio, avrebbe dovuto votare per l'arresto seguendo quello che Francesco Sanna, che ha fatto il relatore, ha detto. Ma poi che succede? Sanna, lei perché? Posso ricordare i numeri, sì, della votazione? 149. No, mi scusi, perché c'era un errore. Sì. I numeri a favore di De Gregorio sono stati 169. E perché dico 169? I numeri per l'arresto sono stati 109 e questi 109 è la somma aritmetica meno 2 delle presenze complessive di Partito Democratico e Italia dei Valori. Sì. Poi dentro questi numeri ci può essere di tutto, ripeto, può anche esserci che ci siamo messi tutti d'accordo per creare un caso e gettare fango sul Senato, sul sistema politico. Mm. Può esserci anche l'impazzimento del sistema politico dietro di questo, o può esserci anche un meccanismo per cui persone che sanno che non tornano in Parlamento dicono: ma che senso ha tutto questo? Ma la politica, la filosofia cane non mangia cane dell'ascoltatore di prima, lei diciamo, la respinge? No, perché cane non mangia cane, vede, ha come presupposto il fatto che continui a non mangiarlo il cane, mentre invece l'abuso e rendere una garanzia costituzionale un privilegio comporta che quella garanzia verrà cancellata. Mm. Verrà cancellata e inseguiremo delle chimere come queste che sta dicendo l'onorevole Papa. Guardi, onorevole Papa, io ho molto rispetto per la sua, sì, esperienza umana, politica, tutto, però mi permetta, il senatore De Gregorio era accusato di associazione per delinquere, sì, di bancarotta fraudolenta, no, ma reati fiscali, che messi tutti insieme fanno una roba veramente pesante. Su questo però si fermi però Sanna, perché sennò sforo e non me lo posso permettere. Magari torneremo e vi rinviterò. L'onorevole Alfonso Papa del PDL e il senatore Francesco Sanna del PD. Grazie a voi e ci ritroviamo lunedì mattina. 24 mattino.